Focus Economia. Sei Focus Economia, un saluto e bentrovati da Vincenzo Miglietta. Dopo un inizio di settimana dedicato quasi esclusivamente agli stress test e agli effetti di questi sui mercati e soprattutto sui titoli bancari, torniamo oggi a parlare di Brexit e a questo punto delle prime conseguenze sull'economia. Notizia di oggi: il taglio dei tassi di interesse dello 0,25% da parte della Banca Centrale d'Inghilterra. Si tratta della prima sforbiciata al costo del denaro dal 2009, una decisione annunciata che doveva arrivare inizialmente il 14 luglio e poi rimandata a questa mattina. Obiettivo di Londra: ridare fiato ad un'economia britannica che da settimane mostra dei segnali preoccupanti, figli della Brexit, segnali che hanno portato la stessa Banca d'Inghilterra a rivedere a ribasso le stime sul PIL per il 2017 dal 2,3 allo 0,8%, tagliate anche le stime per il 2018, restano confermate invece quelle per quest'anno. Le decisioni della Bank of England, e non poteva essere altrimenti, hanno condizionato allora la giornata dei listini europei. Segno largamente positivo questa mattina, poi frenata collettiva. In questo momento FTSE MIB più 0,58%, i migliori e i peggiori al momento di questo listino. Allora vediamoli e ascoltiamoli insieme. ST Microelectronics, parliamo dei migliori, più 3,33%, Unipol più 2,79%, Fineco Bank più 2,74%, Yux più 2,07%, Unicredit più 2%, i peggiori del FTSE MIB: Fiat Chrysler meno 1,36%, Monte dei Paschi meno 1,25%, Leonardo Finmeccanica meno 1,06%, Salvatore Ferragamo meno 0,34%, Campari meno 0,31%. I listini europei: Francoforte più 0,55%, Londra più 1,57%, Parigi più 0,60%, Wall Street sostanzialmente sulla parità, Dow Jones più 0,03%, euro su dollaro 1,1137. Per quanto riguarda le valute, oggi parliamo anche della sterlina e frenata decisa da parte della sterlina. Il cambio euro sterlina segna 0,848, mentre sul dollaro sterlina, quindi dollaro, 1,31. Altro argomento dei nostri approfondimenti di oggi: l'economia e il sud, con i dati del rapporto check-up Mezzogiorno di Confindustria e Centro Studi di SRM. Luci ed ombre allora per il sud. Per la prima volta però dal 2008, nel secondo trimestre 2016, è cresciuto il numero delle imprese, oltre 10.000 in più, più 0,6%. Il Mezzogiorno, spiega il presidente di Confindustria Boccia, può diventare un laboratorio di attrazione degli investimenti per cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Il presidente di Confindustria parla quindi, e lo ascolteremo, anche delle banche. Non mi sembra ci sia un'instabilità strutturale, dice Boccia, che poi aggiunge: l'importante è che le banche tornino a finanziare l'economia reale, ma il problema credito lo risolviamo solo con una politica per la crescita. Questo dunque il nostro sommario di oggi. Potete scriverci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia. Passiamo ora alle notizie in breve. Notizie in breve che apriamo come al solito con le materie prime. Allora, oro e petrolio. L'oro stabile a $1,356 l'oncia, il petrolio più 0,2% a $40,9 il barile. E poi la Brexit oggi prenderà molto spazio del nostro programma. Abbiamo detto del taglio degli interessi. Vediamo nello specifico: la Bank of England ha deciso di abbassarli dallo 0,5% allo 0,25%, nuovo record storico. La misura già preannunciata dal governatore Carney, ma poi rinviata a sorpresa il 14 luglio, è interpretata come uno stimolo all'economia britannica sullo sfondo delle incertezze della Brexit, il divorzio dall'Unione Europea votato col referendum del 23 giugno e dei nuovi allarmi su una possibile recessione. E Che qualcosa non stia andando nell'economia oltremanica lo rivela il fatto che la Bank of England taglia anche le stime sul PIL. Lo abbiamo già anticipato nel nostro sommario: le taglia per il 2017 dal 2,3 allo 0,8%, per il 2018 dal 2,3 all'1,8%, confermate le previsioni di crescita per il 2016 al 2%. La Banca Centrale ha evidenziato come la Brexit abbia ridimensionato l'outlook sull'economia del Regno Unito e vede per il trimestre in corso una crescita di appena lo 0,1%. Della sterlina abbiamo parlato, vi è stato un calo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane e soprattutto oggi. Ulteriore decisione da parte della Bank of England, il taglio del tasso di riferimento e quindi il conseguente ampliamento del piano di acquisti di asset da 375 miliardi di sterline a 435 miliardi. Dalla Bank of England alla Banca Centrale Europea, la ripresa economica nell'area euro prosegue sorretta dalla domanda interna, mentre la crescita delle esportazioni rimane modesta. In prospettiva il recupero dell'economia dovrebbe procedere a un ritmo moderato, è quanto si legge nel bollettino della BCE. Bollettino che mette in evidenza anche l'inflazione: è probabile che i tassi di inflazione restino molto bassi nei prossimi mesi e che poi risalgano nel prosieguo del 2016 per motivi larga parte riconducibili agli effetti base del tasso di variazione sui 12 mesi dei corsi dell'energia. E poi la Banca Centrale Europea fa una classifica tra i paesi europei sulla qualità delle istituzioni. Italia e Grecia, secondo la BCE, sono fra i peggiori per la qualità delle istituzioni rispetto ai paesi OCSE. E quanto emerge dal bollettino di cui dicevamo prima, il bollettino che prende in considerazione la solidità e l'efficienza delle istituzioni sono importanti per la crescita nel lungo periodo. Nel rapporto si spiega che quasi tutti i paesi dell'area dell'euro presentano istituzioni di qualità inferiore rispetto ai paesi dell'OCSE con risultati migliori e che l'indicatore di qualità istituzionale varia ampiamente fra i paesi dell'area, considerando che la Finlandia è alla frontiera in termini di solidità istituzionale. Alcuni paesi come Lussemburgo e Paesi Bassi sono quasi in linea con i risultati migliori dell'OCSE, mentre altri, dice la BCE, come Grecia e Italia, sono prossimi ai paesi dell'OCSE con i risultati peggiori. Il tema delle banche, aspettavamo il suo commento in questi giorni. In realtà il governatore della Banca d'Italia Visco non era intervenuto. Oggi dice: i timori del mercato attorno alla qualità degli asset delle banche italiane devono essere considerati seriamente, non essere liquidati superficialmente, ma ci sono buone ragioni per credere che sono alquanto sovrastimati, così Visco. Il consiglio di amministrazione di Unipol Sai ha deliberato di investire fino a 100 milioni di euro nel fondo Atlante 2, destinato a sottoscrivere parte delle cartolarizzazioni delle sofferenze di Monte dei Paschi di Siena. Ed ora le pensioni. La proposta governativa per uscire prima dal lavoro, la cosiddetta APE, nasce dall'esigenza di ridurre il più possibile l'impatto della flessibilità sui conti pubblici. Ogni lavoratore sarebbe chiamato a sostenere in prima persona i costi del suo accesso anticipato alla pensione con l'assistenza pubblica, che si attiverebbe solo a favore dei redditi più bassi. Così l'ufficio parlamentare di bilancio, secondo il quale il costo della proposta di Boeri sarebbe di 650 milioni nel 2017, mentre l'ipotesi Damiano peserebbe per oltre 3 miliardi, inizialmente 8 al 2024. Parliamo ora del servizio civile. Donna, classe di età 22-25 anni, meridionale, vive in famiglia e appartiene a un ceto sociale medio-alto, è istruito e disponibile alla mobilità. E questo l'identikit del giovane che ha scelto di fare il servizio civile con i bandi del 2015, quindi che sono partiti quest'anno. A tracciarlo è un'indagine dell'ISFOL che si è basato su un campione di 1000 volontari su quasi 28.000, presentato oggi al Ministero del Lavoro dal sottosegretario Luigi Bobba, che ascoltiamo abbiamo al microfono di Leonardo Rossi. No, questi giovani condividono un po' la condizione generale del paese. Noi abbiamo fatto questo investimento sul servizio civile perché pensiamo che possa essere un'opportunità, una duplice opportunità, un'opportunità di accrescimento di competenze spendibili poi anche nel mercato del lavoro, un'opportunità di accrescimento del proprio impegno civico, della propria cittadinanza attiva e dunque di essere effettivamente al servizio di qualcosa di importante per il paese e per la propria comunità locale. Se riusciamo a tenere insieme queste due dimensioni, io credo che l'esperienza del servizio civile lascerà delle tracce importanti nelle generazioni dei giovani. E così dunque le parole del sottosegretario Luigi Bobba sul servizio civile. Ed ancora, l'imprenditore Giovanni Porcarelli ha ritirato la procedura di mobilità per 400 dei 700 dipendenti della JP Industries di Fabriano, annunciato nei giorni scorsi. Lo confermano i sindacati in una pausa della riunione con l'azienda ancora in corso a Fabriano. L'imprenditore ha capito che con la mobilità si sarebbe aggravata la situazione, il commento di Fabrizio Bassotti della FIOM. Parla molto dell'AMA, della municipalizzata romana, per quanto riguarda i rifiuti, ma anche oggi al centro del ciclone sulla gestione della capitale vi è l'ATAC. Io ho un rapporto ottimo con il sindaco e l'amministrazione, da parte mia non ci sono in vista di missioni o passi indietro, così il direttore generale di ATAC Marco Rettiglieri. I problemi non li avrà Rettiglieri, li hanno però i cittadini romani. Oggi con la disponibilità di pochi mezzi sulle strade della capitale, lo conferma lo stesso Rettiglieri, è vero, verissimo, quest'anno c'è stata un'escalation, abbiamo mezzi con 700.000 km sulle spalle e ogni volta che si accende il condizionatore il motore soffre, spiega Rettiglieri. Oltre questo ci sono problemi connessi ai danni che ci sono allo chassis dei bus a causa delle strade di Roma piene di buche, la quasi totalità delle vetture ha danni e per questo dobbiamo riportarli in officina. E andiamo a chiudere queste notizie in brevi con un tema sempre dolente, quello della Tari. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda Roma. Oggi c'è una classifica a livello nazionale. Benevento è il capoluogo di provincia che vanta la tassa sui rifiuti più cara d'Italia, con una media di 473 euro contro quella nazionale di 295 euro. E quanto emerge da un'indagine del servizio di politiche territoriali della UIL, secondo la quale Pisa è la seconda con 465 euro e terza Salerno con 462 euro, lieve calo a Roma, che si attesta però su una media di 312,445 euro, più alta dunque della media nazionale. Con le notizie in breve mi fermo qui, passiamo ora al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento che dedichiamo al Sud, al Mezzogiorno. Nel check-up Mezzogiorno elaborato assieme a SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, Confindustria fotografa un Sud in crescita rispetto allo scorso anno, sebbene rimangano alcune fragilità del sistema produttivo. Le previsioni sul PIL restano positive con un più 0,3% nel 2016 e aumentano di 10.000 unità le imprese. Confindustria sottolinea però anche come la disoccupazione resti superiore al 20%, soprattutto quella giovanile 53,9% e quella femminile 22,2%. Per Viale dell'Astronomia è evidente la necessità di investimenti pubblici e privati per far crescere il tessuto imprenditoriale. Di tutto questo parliamo con il nostro ospite Massimo De Andreis, direttore generale SRM. Buonasera De Andreis. Grazie dell'invito. Grazie a lei. È una fotografia giusta questa che ho anticipato prima del suo intervento, ovvero luci ed ombre per il Sud. Un elemento importante, così diamo spunto al nostro confronto, è quello del numero delle imprese che crescono, ma la disoccupazione resta purtroppo sempre molto alta. Sì, direi che lei ha sintetizzato benissimo, aggiungerei forse soltanto che un altro problema significativo è il gap di produttività che c'è già normalmente tra l'Italia e la Germania e che è ancora più accentuato nel mezzogiorno. Però vorrei far osservare una cosa, che le medie non rappresentano più in modo diciamo significativo il mezzogiorno, perché c'è molta varianza tra chi va bene e chi va male. Adesso noi diciamo oggi con Confindustria abbiamo un po' festeggiato il fatto che di fronte a molte media abbiamo il segno più, e questo naturalmente è un segno positivo. Un indice positivo, però resta il fatto che appunto all'interno di queste medie bisogna andare a distinguere, e questo significa che ci sono però anche molte realtà eccellenti, molte imprese che vanno bene, vanno anche meglio della media, ma non si vedono, sono annegate diciamo in un giudizio mediamente negativo, e quindi l'importanza di distinguere, l'importanza di andare nel dettaglio. Basta forse ricordare un dato: l'intero mezzogiorno ha un valore aggiunto manifatturiero, quindi dell'industria, di 27,5 miliardi, questo vale grosso modo quanto il valore aggiunto manifatturiero della Finlandia, quindi non è vero che c'è il deserto industriale, soltanto che bisogna sapere andare a guardare nel dettaglio. Ecco, quindi non dobbiamo più guardare al nord, al sud, al centro come elementi distinti, quasi fossero degli stati a sé stanti, ma vi è un'interdipendenza molto importante, ed ecco perché sono anche utili gli studi come quelli di oggi. Qual è l'interdipendenza allora, se vi è, del sud rispetto al resto del paese? Sì, questo è un punto molto importante. Guardi, mediamente parlando, diciamo a livello di l'insieme dei settori produttivi, ogni 100 euro di investimenti al sud producono una domanda aggiuntiva di 32 euro nel nord, nel centro-nord Italia, che è un valore che arriva fino a 70 euro di ricaduta positiva, quindi la gran parte della ricaduta positiva per alcuni settori produttivi come ad esempio l'abbigliamento moda o il settore dell'automotive. Questo naturalmente ha due diciamo facce. Una faccia negativa significa che il Sud non è perfettamente capace di trattenere al suo interno l'effetto positivo di un investimento. Però c'è un elemento invece che va considerato in modo positivo, cioè che ogni investimento fatto nel Mezzogiorno produce un effetto positivo anche nel Centro-Nord, quindi contribuisce a generare crescita produttiva anche nel Centro-Nord. Questo consente, credo, di sottolineare, come ha fatto il Presidente Boccia oggi molto autorevolmente, che investire nel Mezzogiorno significa investire in una dimensione nazionale, significa contribuire allo sviluppo del Paese. Questo penso sia un aspetto che va sottolineato in modo particolare. E infatti il presidente di Confindustria Boccia dice il Sud può diventare oggi un laboratorio sperimentale di attrazione degli investimenti. Andiamo ad ascoltare questo passaggio. Timidi segnali di ripresa interessanti, fare i conti con le potenzialità del Paese a partire dal nostro mezzogiorno usando al meglio i fondi di coesione sulle tre grandi questioni: fondi per le infrastrutture, riattivazione investimenti privati e una grande attenzione alla politica dell'offerta per la competitività dell'impresa. Si pone al tempo stesso una questione temporale, cioè in quanto tempo riusciamo a farlo, è una questione di acceleratore, strumenti uguali per tutto il Paese con una intensità rilevante per il nostro mezzogiorno. Di fatto quindi il presidente di Confindustria Boccia invita a fare presto, a guardare al mezzogiorno come parte integrante del resto del paese. Ricordiamo il presidente Boccia al microfono del collega Andrea Viali. Torniamo a De Andreis. Qual è la capacità di esportazione del sud? Come si inserisce questo tessuto territoriale poi nelle esportazioni del nostro paese? I dati sono decisamente positivi. Nel complesso la crescita dell'export del mezzogiorno è stato più 2,5%, quando in Italia è stato nello stesso periodo più 0,2%, quindi una performance migliore, e questo diciamo è particolarmente importante, anche se diciamo c'è un limite, che è quello che queste esportazioni sono prevalentemente concentrate nell'area diciamo europea, Unione Europea, mercato comune, quindi diciamo un mercato relativamente più tranquillo e più protetto rispetto a mercati nuovi sui quali invece il mezzogiorno è un pochino più debole. Però bisogna considerare anche un aspetto che spesso viene dimenticato: il mezzogiorno, e lo dimostra anche quel ragionamento sulle interdipendenze che facevamo prima, il mezzogiorno, certo, Il Mezzogiorno è in parte subfornitore, cioè una parte importante delle imprese del Sud producono per le imprese del Nord. Questo lo dimostrano chiaramente le analisi sulle singole filiere. Questo significa anche però che una parte di quello che viene prodotto nel Mezzogiorno non può essere esportato dal Mezzogiorno, perché è una componente di un prodotto finito che viene poi esportato da Bologna, Firenze, piuttosto che Milano, Torino, eccetera. Quindi, come dire, c'è anche una quota di export che non si vede in diretto, che è il contributo che il Mezzogiorno dà all'esportazione del Centro-Nord, che mal contato, è chiaro, è difficile fare questo tipo di analisi nel dettaglio perché bisogna andare a ricostruire tutte le matrici, ma mal contato è il 10% dell'esportazione del Nord. Quindi non solo sono andate bene, e questo è un indice di dinamicità, le esportazioni dirette, ma c'è anche una contribuzione indiretta a quello che sono le performance dell'export nazionale. E che comunque che la produzione nel Mezzogiorno stia andando bene lo certifica quello che lei sta dicendo, quindi esportazioni dirette, indirette, ma anche poi i dati sul PIL proprio del Mezzogiorno, anche il rapporto Svimez lo prende in considerazione, e del prodotto interno lordo ha parlato anche il presidente di Confindustria Boccia, sempre nella conferenza stampa di oggi su Check Up Mezzogiorno. Sentiamo allora ancora Boccia al microfono di Andrea Viali. C'è un rallentamento che deriva dalla questione internazionale. Questo significa che non possiamo avere più alibi per non affrontare la questione italiana e la questione europea in chiave di politica per la crescita, per un'economia solida italiana ed europea. Quindi questo dato ci dice che c'è un rallentamento, il rallentamento deriva da fattori esterni, e su questo noi dobbiamo cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Ricordiamo che siamo il secondo paese industriale d'Europa dopo la Germania e abbiamo potenzialità incredibili su cui fare i conti. Ecco, De Andreis, prodotto interno lordo in crescita, abbiamo messo in evidenza quali sono le realtà del Mezzogiorno. Per fare impresa al Sud, come da tutte le parti, ma in questo momento di difficoltà soprattutto al Sud, serve una porta aperta da parte delle banche. Qual è il rapporto tra istituti di credito e imprese del Mezzogiorno? Ovvero, anche in quest'area del paese pesano le cosiddette sofferenze? Sì, pesano. Comunque bisogna ricordare che gli impieghi sono cresciuti al Sud in misura maggiore, più 2,5% rispetto al resto, diciamo, delle macro regioni italiane. Scendono inoltre i tassi attivi sulle operazioni a breve, che è un dato particolarmente importante, anche se ricordiamo che rimane un differenziale di circa 1,5 punti rispetto alla media italiana, ma questi sono dati medi dell'insieme del settore del sistema bancario. Diciamo che chiaramente che questo differenziale è anche da mettere in connessione al fatto che le sofferenze nel Mezzogiorno sono significative, sono importanti, e quindi è ovvio che c'è in qualche misura una relazione tra questi due fenomeni. Penso però, e questo lo certifica chiaramente anche l'insieme dei dati che su credito con fonte sostanzialmente Banca d'Italia e comunque le fonti pubbliche che fanno riferimento all'insieme del sistema bancario, si vede chiaramente che il rapporto è migliorato fortemente rispetto agli ultimi anni, quando c'era più difficoltà di rapporto col mondo del credito. Certamente. E della situazione delle banche ha parlato sempre il presidente di Confindustria Boccia. Abbiamo visto, lo stiamo raccontando, le difficoltà di questi giorni dei mercati, soprattutto che hanno puntato i titoli bancari. Allora, cosa dice Boccia? La situazione delle banche va distinta tra gli andamenti di borsa, quindi il percepito, l'ansia dei mercati e anche la speculazione, da quella che invece è la situazione reale. Mi sembra che un primo grande passo è stato fatto. Abbiamo una situazione legata ai non performance loans che però è gestibile, dice il leader degli industriali. Altra cosa sono i derivati che hanno altri paesi, ma non vogliamo fare benchmark negativi con nessuno, dice sempre lo stesso presidente Boccia, che andiamo invece poi ad ascoltare sul caso specifico di Monte dei Paschi di Siena. Ascoltiamo Boccia. Cioè la banca va distinta tra gli andamentali di borsa delle banche, quindi il percepito, l'ansia dei mercati e anche le speculazioni, da quella che è la situazione reale. Mi sembra che un primo grande passo è stato fatto, abbiamo una situazione legata agli NPL che però è gestibile, altra cosa sono i derivati che hanno altri paesi, ma non vogliamo fare benchmark negativo con nessuno, l'importante è che le banche ritornino a finanziare l'economia reale, ma qui il problema credito lo risolviamo solo con una politica per la crescita, perché se vogliamo affrontare il credito prescindendo dalla crescita facciamo un grande errore. Il piano MPS è condivisibile, vediamo adesso gli effetti e speriamo, come dire, che non ci sia bisogno d'altro. Beh, l'instabilità bancaria influisce perché non esiste un villaggio economico forte fatto di banche deboli, ma non mi sembra che questo sia il caso, più che l'instabilità è il percepito di instabilità che gli altri anni, perché non penso che siamo di fronte a un'instabilità strutturale. E queste dunque le parole del presidente di Confindustria Boccia sul singolo caso di Monte dei Paschi di Siena. Noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. Focus Economia 17:33, di nuovo insieme, Focus Economia, 349-238-6666, il numero per i vostri sms. Stavamo parlando del mezzogiorno, check-up mezzogiorno, il piano elaborato da Confindustria e da SRM, il centro studi collegato a Intesa San Paolo, che fotografa oggi il mezzogiorno su vari aspetti, dall'occupazione, il credito, per arrivare ad altri aspetti che andiamo a commentare ancora, e lo ringrazio con il nostro ospite Massimo De Andreis, direttore generale SRM. Un altro aspetto interessante, De Andreis, parliamo del sud, siamo in estate, quello del turismo, il sud, il mezzogiorno mantiene intatta tutta la sua capacità di attrazione. Sì, certamente ha beneficiato, diciamo, i dati beneficiano anche dal fatto che la situazione generale nel Mediterraneo è di instabilità e quindi alcune mete concorrenziali non sono più delle alternative in questo periodo, ma anche se osserviamo invece in una logica più di lungo periodo vediamo che la crescita è costante, quindi c'è un dato strutturale e un dato, diciamo, congiunturale. E naturalmente questo è molto positivo anche perché diciamo, lo osserviamo su diversi indicatori, per esempio sono in forte crescita gli arrivi nei porti, intendo gli arrivi dei croceristi. Certo. Il solo porto di Napoli, 150.000 croceristi in più, è un dato molto importante. Poi osserviamo gli aeroporti, più 3,4% dei passeggeri, soprattutto quelli targati appunto con clientela turistica e non business. Ecco, sono diversi gli indicatori, anche quello per esempio della crescita degli introiti dei musei, perché poi noi cerchiamo di prendere una pluralità di indicatori per andare a costruire la tendenza generale. Più 13% la crescita degli introiti nei musei è evidentemente un indicatore da mettere in diretta connessione col turismo. Quindi questi sono dati che fanno anche ben sperare, diciamo, sulla stagione che è in corso, di cui potremo tirare un bilancio poi a settembre. Certamente, numeri quindi positivi. Lei parlava di porti, di aeroporti, ma anche di musei. In generale sta migliorando la situazione delle infrastrutture al sud, secondo lei? Vengono utilizzati i cosiddetti fondi, ma quelli europei, i fondi strutturali? Bisogna fare molto, ma molto di più, soprattutto perché se c'è un aspetto che è stato ben messo in evidenza proprio oggi anche dagli interventi del presidente Boccia, il fatto che occorrono investimenti infrastrutturali, e noi indichiamo anche un segmento in cui in particolare è urgente diciamo concentrare l'attenzione, che è quello, diciamo, della filiera logistico portuale. Noi, e qui voglio tornare, se lei mi consente, un certo, secondo, all'aspetto più strettamente economico. Naturalmente il turismo è una componente importantissima dell'economia e quando parliamo di croceristi parliamo di economia, ma voglio guardarlo anche sotto il profilo proprio dell'export o dell'interscambio commerciale di cui commentavamo prima. Noi dobbiamo ricordare che mediamente in Italia significa come media da Bolzano alla Sicilia, il 40% di tutto ciò che importiamo o esportiamo parte o arriva via nave. Quindi è chiaro che la capacità dei nostri porti di essere competitivi, veloci, di avere una logistica efficace, di sdoganamento, cioè tutta la catena, diciamo, della portualità ha un'incidenza diretta poi sull'efficacia delle nostre, sui costi anche delle nostre esportazioni, così come i costi delle importazioni. Ma al sud questo dato medio del 40% diventa il 63%, in alcune regioni poi parliamo del 90% e ovviamente mi riferisco alle isole. Alle isole, certamente. Che in quelle realtà locali e in generale nel mezzogiorno l'importanza strategica della portualità è ancora più importante di quanto non lo sia già, ed è già elevata mediamente per tutto il paese. E noi abbiamo un gap sulla portualità. Adesso la riforma dei porti del governo è importante, va nella giusta direzione, bisogna implementarla rapidamente. E quindi De Andreis, qui torniamo alla domanda iniziale, che percentuale, se l'abbiamo, ma o comunque una tendenza vi è di sfruttamento, di utilizzo dei fondi a disposizione in queste aree del Mezzogiorno rispetto al resto del paese, o anche se c'è una comparazione rispetto a paesi simili in Europa? Guardi, l'andamento della, diciamo, della spesa è in miglioramento anche nelle regioni del Mezzogiorno. Non è soltanto però una questione di velocità e di sfruttamento totale delle risorse, è ovvio che questo è l'aspetto contabile più importante, ma è anche molto importante che queste risorse vengano spese per degli investimenti prioritari. E quindi la focalizzazione su quegli investimenti infrastrutturali che servono di più all'economia, che sono più funzionali a rendere tutto il resto del sistema efficiente. E questa è la vera sfida. E poi il coordinamento, anche questo voglio ricordare, proprio oggi il Presidente Boccia l'ha molto sottolineato. Non possiamo avere con 8 regioni 8 piani individuali totalmente differenti uno dall'altro, occorre un coordinamento di macro regione Mezzogiorno, perché dato che poi questi fondi sono implementati a livello regionale, esiste un problema di tempistica, di velocità, ma anche di qualità della spesa. E la qualità è fatta anche dalla capacità di coordinamento tra le regioni. Ecco, De Andreis, le faccio un'ultima domanda. Lei parla di coordinamento e di macro-regione. Macro-regione, per poter utilizzare i fondi a disposizione, si fa squadra, le chiedo, anche invece per affinché il Mezzogiorno sia attrattivo per gli investitori esteri, o il Sud, come avviene, ci diceva lei prima, le imprese del Sud di fatto producono per le imprese del Nord in grande parte, o c'è questa capacità del Sud di attrarre investimenti esteri, ma in maniera generale, non la singola regione? Dunque, c'è qualche segnale che questa tendenza stia iniziando, perché per esempio credo che l'investimento importante che ha fatto la Apple a Napoli per certo. Il suo centro sulle app sia significativo. Ovviamente i colossi di questo genere scelgono con accuratezza i loro investimenti anche in una logica di prospettiva, quindi iniziamo ad intravedere dei segni che si uniscono ad una dinamica invece più interna, cioè il fatto che l'imprenditorialità giovanile e le start-up hanno danno dei segnali di vitalità, anche questi in qualche misura censiti dai numeri che noi siamo andati ad indagare, e quindi questo significa che c'è una vitalità locale che evidentemente inizia Bene. Ad essere intercettata anche a livello di investimento internazionale. Benissimo, benissimo. La ringrazio, ringraziamo Grazie Massimo De Andreis, direttore generale SRM. Noi cambiamo argomento e veniamo alla giornata in borsa. Giornata in borsa che affrontiamo e commentiamo con il collega di Radio Cor Sole 24 Ore, CEO Condina. Buon pomeriggio, CEO. Siamo in attesa di collegarci con il collega CEO Condina. Allora, diciamo subito, FTSE MIB in questo momento più 0,66% a 16.129 punti, in sostanziale parità in questo momento esatta Wall Street con il Dow Jones. Allora abbiamo con noi CEO Condina, collega di Radio Cor Il Sole 24 Ore. CEO, mi sembra una giornata di borsa influenzata nettamente dalle decisioni che arrivano da Londra. Sì, assolutamente, è stata, diciamo che le borse prima hanno reagito subito molto bene a quella che è stata la decisione della BOE, che ha tagliato i tassi, ha potenziato il programma di acquisto di titoli di Stato, questo a fronte di un'economia britannica che sempre secondo Bank of England potrebbe andare incontro a un brusco rallentamento, quindi borse subito galvanizzate, poi nel pomeriggio i guadagni si sono un pochino ridotti, ma comunque hanno chiuso in territorio positivo, Milano più 0,66%, tra le borse europee anche Parigi e Francoforte sono salite dello 0,6%, spicca Londra che ha guadagnato l'1,5%. Ecco, poi c'è in questo scenario, per una volta ci dedichiamo anche alle valute, e chi soffre maggiormente è proprio la sterlina in queste ore. Sì, assolutamente, un effetto molto, diciamo, quello molto comune che avviene sul mercato valutario quando una banca centrale taglia i tassi, ovviamente cala anche il tasso di remunerazione del denaro che viene investito in quel paese, chiaramente Bank of England ha ridotto i tassi allo 0,25%, quindi c'è stata una corsa ad acquistare altre valute, la sterlina è così scivolata a 1,33 contro il dollaro, soltanto questa mattina era 1,31. Ecco, per quanto riguarda i titoli bancari, Monte dei Paschi, un giorno su, un giorno giù, potremmo dire. Sì, Monte dei Paschi aveva anche iniziato bene, poi è scivolata in territorio negativo, ma viste le performance insomma dei giorni scorsi, questo meno 2% passa quasi, diciamo, inosservato, bisognerà vedere poi come andrà effettivamente l'aumento di capitale da 5 miliardi. Sempre a proposito di banche, c'è invece Unicredit che oggi si è un po' ripresa, ha guadagnato il 2,5%, ricordiamo che ieri erano stati diffusi i conti semestrali che per certi versi erano anche stati superiori alle attese. In generale comunque sul settore delle banche resta una certa debolezza. Certa debolezza per il settore bancario, per quanto riguarda un titolo che invece ha guadagnato un più 2,6%, parliamo di Unipol, quindi trimestrali giudicate positivamente dal mercato. Sì, oggi un altro dei fili conduttori della giornata a Piazza Affari è stato quello delle trimestrali, insomma delle semestrali, una di queste Unipol che ha annunciato un utile netto consolidato di 276 milioni, il dato è in netto ribasso rispetto all'anno scorso quando era stato di 446 milioni, ma l'anno scorso c'erano state delle plusvalenze derivanti dalla gestione finanziaria, quindi se invece si guardano i dati diciamo comparati su un perimetro simile, questi dati hanno decisamente soddisfatto il mercato e sono stati migliori delle stime degli analisti, di qui il balzo in borsa. Anche oggi occhi puntati su FCA, ieri si parlava di Samsung e Magneti Marelli, oggi si prosegue su quella strada? Sì, insomma diciamo non sono arrivate smentite, ieri il titolo aveva guadagnato molto e oggi insomma, è arrivato un qualche realizzo più che fisiologico, insomma ha chiuso a meno 0,9%, ci stava insomma. Allora, parlavi di trimestrali, leggo fuori dal listino principale un Safilo che guadagna oltre il 10%. Sì, Safilo è andata molto bene, diciamo, a colpire il mercato è stato soprattutto il secondo trimestre in cui vendite e profitti hanno recuperato velocità e soprattutto per quanto riguarda i brand forti del gruppo i ricavi sono aumentati del 9%, ricordiamo che invece i primi sei mesi dell'anno si sono chiusi con delle vendite in flessione del 3,5%, comunque insomma sono stati dei dati che hanno sorpreso decisamente in positivo il mercato e poi ne è prova il fatto che alla fine il titolo ha chiuso a più 15,5%. Ecco, cioè, andando in chiusura, tra i migliori leggo Tenaris e ST Microelectronics, quindi giornata positiva per questi titoli. ST diciamo, è stata favorita dal buon andamento del settore tecnologico in Europa, infine una Francoforte ha chiuso un'ottima seduta in rialzo di oltre il 2%, per quanto riguarda Tenaris invece una semestrale in calo, ma poi oggi il petrolio ha via via recuperato terreno e sicuramente Tenaris che fa tubi appunto per il greggio ne ha giovato, in più il management prevede comunque una ripresa del giro d'affari e dell'utilizzo della capacità produttiva nell'ultimo trimestre dell'anno, sicuramente un'indicazione prospettica che è stata gradita dal mercato. Grazie a Ciao Condina, Radio Coro Sole 24 ore, ci fermiamo per dare spazio alle strade. Focus Economia. 17.48, Focus Economia, siamo nell'ultima parte della trasmissione di oggi, parliamo della Brexit, degli effetti della Brexit, delle decisioni oggi della Bank of England. La principale decisione è quella di abbassare i tassi di interesse dallo 0,5 allo 0,25, nuovo record storico. Parliamo di tutto ciò con il collega del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Leonardo, la prima domanda che ti faccio e che ci chiedono anche i nostri ascoltatori è una decisione questa che era attesa circa 2 settimane fa, poi è stata rimandata, quindi per quale motivo poi si è intervenuti oggi? Ma fin dall'inizio il governatore aveva detto che una decisione sarebbe stata presa fino dall'inizio del dopo Brexit, diciamo. Il governatore Mark Carney aveva detto che una decisione sarebbe stata presa entro i primi di agosto, lasciando intendere che la riunione di metà luglio probabilmente sarebbe stata semplicemente propedeutica alla mossa poi maturata oggi. In realtà in queste ultime 2 settimane si sono, come dire, sono venuti in evidenza dei punti critici del quadro economico britannico. Tra l'altro l'economia inglese continua ad andare molto bene, l'ultimo trimestre ha fatto più 0,6 di crescita del prodotto interno lordo, però la prospettiva è dominata dall'incertezza e questa incertezza dovrà essere comunque gestita soltanto da una soluzione politica. In attesa che questa soluzione politica arrivi, cioè il destino e i nuovi rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea, Carney ha ritenuto opportuno intervenire per far fronte a un rallentamento che le previsioni dicono sia in arrivo. Sia in arrivo, e si dice che questo trimestre dovrebbe essere indicare una crescita dello 0,1% secondo la Banca d'Inghilterra, mentre secondo altri analisti poteva essere già un trimestre in recessione. Quindi sostanzialmente Recessione che Carney ritiene possa essere evitata grazie alle misure di oggi, che non sono solo la riduzione del costo del denaro dallo 0,5 allo 0,25%, ma anche un nuovo round di quantitative easing, quell'allentamento quantitativo che passa attraverso la concessione di il riacquisto di bond, e poi nella versione di oggi è più articolata perché oltre al riacquisto dei bond sovrani ci sono anche il riacquisto di corporate bond. Questa quindi le decisioni di oggi, mi sembra da quello che tu dici siano soprattutto preventive, perché l'ultimo trimestre per l'economia del Regno Unito non è stata male, quindi una decisione abbastanza preventiva. Nonostante questo la Banca d'Inghilterra oggi ha tagliato le stime del PIL di fatto per i prossimi 2 anni e anche non di poco, perché vediamo, leggiamo per il 2017 dal 2,3 allo 0,8, per il 2018 dal 2,3 all'1,8%, più in generale comunque si considera, Leonardo, che i prossimi 2 anni saranno di difficoltà evidentemente, quindi per questo tipo di economia. Sì, certamente, il punto vero è l'incertezza, cioè nel senso che qui non sei di fronte a un fenomeno noto e quantificabile, sei di fronte a una scelta politica che ha sprofondato il paese nell'ignoto, cioè se domani esce dall'Unione Europea formalmente, cioè adesso ha dimostrato la volontà di volerlo fare, nel momento in cui questa volontà si concretizzerà, cioè di colpo cosa fa? La Gran Bretagna, che ha il 50% di export con il resto dell'Unione Europea, dovrà pagare dazi, tariffe, eccetera. Cioè, tutto questo ha bloccato gli investimenti, ha paralizzato gli imprenditori che inevitabilmente chiedono certezze. Questa certezza politica è quella che latita. In questo quadro la Banca Centrale è intervenuta per, come dire, dispiegare i suoi mezzi per cercare di far fronte a una situazione il cui vero peso è molto difficile da quantificare, perché non si sa qual è il domani che ha creato questa determinazione di uscire dall'Unione Europea. Di sicuro, Leonardo, un aspetto che potrebbe essere positivo per l'economia della Gran Bretagna è il deprezzamento oggi abbastanza repentino della sterlina. Di fatto comunque i prodotti made in UK potrebbero essere più positivi, più acquistabili per il resto del continente. Sì, soprattutto sulla manifattura, qui è un grosso, è un importante polo per la automobilistico, no? L'automotive, certo, britannico è molto importante, anche se non ci sono brand locali, ma è delocalizzazione di imprese straniere, però è molto importante, quindi la manifattura da questo punto di vista potrebbe goderne. E in realtà però l'80% dell'economia di questo paese è sui servizi, infatti i servizi secondo gli indici PMI sono quelli che più subiranno un colpo e avranno un effetto moderato dalla svalutazione della sterlina. Ecco, l'indice dei servizi PMI in discesa, così come leggo da varie agenzie, in discesa anche la capacità del sogno, diciamo così, di proprietà da parte dei cittadini britannici, diminuisce la percentuale dei cittadini che sono proprietari del cosiddetto mattone. Sembrerebbe una società che va perdendo potere d'acquisto e ricchezza anche da questo dato sull'immobiliare. Assolutamente sì, sull'immobiliare si regge tutta l'economia britannica, nel senso che le famiglie si indebitano per acquistare le case, molto più che la media degli altri paesi europei, certamente molto di più che in Italia, qui c'è gente che compra con mutui del 100%, del 95%. Quindi un'esposizione molto elevata, poi tendenzialmente hanno goduto di questo apprezzamento dell'immobiliare che in questi anni, da molti anni, è stata una costante sotto l'influenza soprattutto degli acquisti di stranieri che hanno fatto lievitare i prezzi e continuano a indebitarsi finanziando i consumi interni e quindi è un ciclo che si automantiene ma che alla base di tutto, di quasi tutto, è il mattone. Se questo incomincia a tremare, il quadro diventa un po' preoccupante, come oggi Carney ha indicato. Certamente. Leonardo, stiamo andando verso la chiusura. Allora ti farei un'ultima domanda più strettamente politica. In questo clima di incertezza, ma non converrebbe allora al governo politico dare un segnale abbastanza preciso sui tempi di uscita dalla Brexit? Dire usciremo, inizieremo ad uscire questo X mese, non questa politica invece del rimando giorno dopo giorno? Assolutamente sì. Questa è l'urgenza vera, il problema è che non sanno cosa fare, continuano ad essere divisi e nonostante Theresa May, a mio avviso, si stia comportando in modo capace, adeguato nella gestione di questa cosa, ci sono dei rallentamenti e delle lentezze che fanno giustamente temere per la tenuta dell'economia britannica, perché poi alla fine la politica monetaria avrà, come dire, strumenti importanti, ma come in una crisi come questa non sono strumenti risolutivi. E lo strumento risolutivo è la scelta politica. Certamente. Che tu sappia, ci sono stati contatti tra la Banca d'Inghilterra e le autorità monetarie europee prima di questa decisione? Ma, di oggi parliamo. Non mi risulta, ma comunque sono in... Non, francamente non lo so, ma sono in costante contatto, comunque voglio dire, parlano spessissimo, certo. Non mi stupirebbe assolutamente. Ecco, con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, ci stiamo avviando alla chiusura di Focus Economia. Stiamo parlando della Brexit, degli effetti della Brexit sull'economia non solo della Gran Bretagna, ma sui timori che questa sta innestando in tutto il vecchio continente. Ricordiamo allora oggi e ringraziamo Leonardo Maisano per la sua disponibilità, gli alti e bassi dei mercati. mercati, con il FTSE MIB che alla fine ha retto, ha chiuso con un più 0,66% a 16.129 punti, titoli bancari anche oggi con alti e bassi. Vedremo domani la sorte di Piazza Affari. Ringrazio in questo momento Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza al programma, Valerio Rocchetti e Andrea Roccabella in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.